Scarlatti al laterino, l'oboe, i corni, le violette, fare. Il violoncello, i violini, il contrabbasso, a suo tempo farà maggior fracasso. Attenti, o miei signori, con arco ben tenuto, e seguir voi dovrete quel che dirò. Questo è il passo dei violini, lai, lai, lai, la. Cosa fate, o voi, mio caro? Pio, pio, pio, pio. Si incomincia, benedetto contrabbasso, maledetto, maledetto, ma che diavolo qui si fa? Cosa diavolo qui si fa? Questo è il passo dei violini, lai, lai, lai, la. Blopper, blopper, blopper, blopper. Oh, vi prego, levate e imparate a ben contar, altrimenti non si va. Passo dei violini, lai, lai, lai, lai. Le violette non ancora, dito il flauto non ancora, ma che diavolo si fa? Maledetto contrabbasso, cosa diavolo qui si fa? Cosa diavolo qui si fa? Qui si manca d'attenzione, qui si manca d'attenzione, no, così, così non va. Mi scongiuro in ginocchione, mi scongiuro in ginocchione. Scaldarsi il sangue e per principio badate a quel che dico. Nessun cominci il passo se pria a me non senta. Pensate che io non sono qui per farvi il buffone. Questo è il passo dei violini, lai, lai, lai, bravissimi, va bene, questo è quel delle violette, la la la la la la la la la la la la. Lai lai la, lai lai la, lai lai lai lai lai lai la. Bravi assai, o benedette, il lobo è così farà, la la la la la la la la la la la la la. Bio, bio, bio, bio. Bio, bio, bio, bio, bio, bio, bio. Molto bene in verità, or i cormi fanno assieme. Son contento, vado bene, ora adesso unitamente via sentiamo come andrà, via sentiamo come andrà. D'arco. Qui staccate, qui legate, qui staccate, qui legate, l'uomo è solo. Le violette, l'auto solo, presto i corni, qui fortissimo. Fracasso, occhio, orchestra benedetta, io mi sento canzonare, io mi sento canzonare. Occhio armonico, fracasso, occhio, orchestra benedetta, io mi sento canzonare, io mi sento canzonare, io mi sento canzonare. Queste note a punta d'arco, i violini e le violette con i corvi, i violini e il flauto solo, o i corni con il flauto, i i violini, bravi flauto solo, bene le violette, bravi oboe solo, bene oboe flauto, bravi presto i corni, bravi, bene, bravi, bene, bravi assai, bravi assai, bravi assai. Occhio armonico, fracasso, occhio orchestra benedetta, io mi sento pensare, io mi sento occhio armonico, fracasso, occhio orchestra benedetta, io mi sento consolare, io mi sento consolare, io mi sento consolare, io mi sento consolare. Bravi, bravissimi, così va bene. Son contento dell'assieme che tiene ciascheduno facendo la sua parte. Perciò se non vi spiace, bramo provare un pezzo di stile affatto nuovo. Voltate ora le carte e si incominci un cantabile allegro, cioè di due colori, come una salsa che abbia più sapori. I piani e i forti vi prego d'osservare. Il contrabbasso non dia quelle strappate che fan cattivo effetto nell'armonia. Le violette, il violoncello s'accordin bene assieme nel passaggio che lor ho fatto. S'incominci la battuta con forza e calore, s'incominci il gran morso con strepito e vigore. Ci sposeremo fra suoni. oboe. Vi ringrazio, miei signori.